La sequenza di Fibonacci è una progressione. Sapete già i primi numeri. 0, 1, 1, 2, 3, 5. Continuate sommando gli ultimi due numeri per trovare il numero successivo. Se il numero 5 si trova alla posizione 6, a quale posizione si troverà il numero 21?